Scusa, sì. Posso registrare il suono che fa il frisbee quando lo prendo? Certo. O lo lanci, insomma. Sì, sì. Qualsiasi cosa. Posso fare un paio di suoni strani del frisbee. Che interessante. Per tenerlo per me e far trick, sì. 8 anni già. E da quant'è che giochi? Con un disco in mano. Da quant'è che giochi? Io ho iniziato a febbraio, però pandemia, chiusure, a maggio. È chiaro. Com'è? Lammer. Sempre a pistola, come il trick. Se vuoi ti lancio un altro paio di... No. Come vi chiamerete? Frisbee Fever Rovereto. Come? Frisbee Fever Rovereto. Ma perché Frisbee Fever è già il vostro nome? È della squadra, siamo sotto una polisportiva, però siamo... Preparatevi già bene che in estate venite a fare il torneo che organizziamo giù. Ah, volentieri. Da. Super volentieri. Abbiamo fatto la prima edizione a luglio. Fighissimo. Diciamo che è andato benissimo. La prima volta sono venuti, eravamo 86 giocatori. Paura. Gran torneo. Come? Gran torneo. Sì. Poi sono venuti un po' da ogni dove. Cagliari, Milano, Torino. Com'è che vai giù Bologna da qua? Eh? Com'è che vai giù da qua? In che senso? Cioè vai giù in treno, in macchina? Adesso in aereo. Ah, sarò beh. Solo per il weekend. Ci sta. Sono letteralmente di passaggio. Ho preso l'aereo ieri alle 7 da Bari. Alle 9.40 ero su a Pergine ad allenarmi. Paura. E di altri hai fatto qualche torneo? Beh, no, in realtà no, solo allenamenti così. Non ho tanta voglia di far tornei. Ho paura di farmi male. Vabbè, quello lo devi mettere in conto. Sì. Prima o poi succede. Infatti c'ho il ginocchio mezzo. Non dovrei giocare, però. Me ne frega niente. Finché si muove. Finché va. No, se vai. Poi io faccio anche trail. Cos'è che fai? Trail. Oh, scusi, ma di più. È corsa nei sentieri, trail running. Quello ginocchia. Già. Oh, però.